niente riduzioni né sconti. La mia mente su fogli bianchi, rime a banchi, come la nebbia sui campi. Crampi neuronici, deliri impossibili, aforismi di byte psicolabili. Eravamo fuoco nel fuoco, ma un buco amico non tappa un altro buco. Non bruco, erba mala, fumo. Avevamo spodestato Nettuno, ora arriviamo a farti muovere il culo. In questo mondo marcio come Marco, trovi il politico corrotto e l'amante perfetto. Non il guerriero dai coglioni di marmo, noi combattiamo ogni giorno una donna chiamata ricordo. Ci sono più vivi che tempo, ma devo scegliere presto tra Dorian Gray, che è morto sapendo che era un bastardo, e il suo ritratto invecchiato e brutto su un puzzle che crolla pezzo a pezzo. Sono un demente latitante, prigioniero come Atlante. Sostengo un mondo che mi crolla addosso. Padre, dov'è il tuo Cristo? Riverso al suolo e perso negli aforismi di un pazzo. Sono un demente latitante, prigioniero come Atlante. Sostengo un mondo che mi crolla addosso. Padre, dov'è il tuo Cristo? Riverso al suolo e perso negli aforismi di un pazzo. Ho fatto un sogno, prendevo il mondo, lo spaccavo nel mezzo per poi sputarne il pezzo all'interno. Dio è morto, è il portatore di luce, è il re dell'inferno. Cammino cauto sul ghiaccio, non si distingue una strada, un palazzo. Avevamo una meta, ma sono pazzo e non la ricordo. Vado solo al freddo, ci sono eletti al caldo. Viviamo in sal, combattiamo, non abbiamo altro. Ci chiediamo morendo perché stavamo vivendo. Perché ci sembra che nulla abbia senso. La vita è un cesso e accorgersene vuol dire buonsenso. Siamo clown su un palco, svenduti per l'ultimo posto del circo, pronti a saldarsi addosso per un record più alto, per un voto più alto, per delle tette più in alto, uno stipendio più alto, un cazzo di precipizio più alto. Sono un demente latitante, prigioniero come Atlante. Sostengo un mondo che mi crolla addosso. Padre, dov'è il tuo Cristo? Riverso al suolo e perso negli aforismi di un pazzo. Sono un demente latitante, prigioniero come Atlante. Sostengo un mondo che mi crolla addosso. Padre, dov'è il tuo Cristo? Riverso al suolo e perso negli aforismi di un pazzo.